Friuli nel mondo. 71esima trasmissione dedicata agli emigrati. Ricordando Giovanni Battista Candotti. Centocinquant'anni fa, e precisamente il 1 agosto 1809, nasceva a Codroipo il sacerdote Giovanni Battista Candotti, fecondo compositore di musica sacra. Il grande musicista Tomadini, suo allievo, elenca in 519 le composizioni del Candotti, di cui 146 tra pastorali, sonate, marce e sinfonie per organo, 81 messe, 99 salmi, tra i quali stupendi Magnificat e devoti Miserere, e 200 composizioni tra litanie, mottetti, tedeum, inni, eccetera. Una sua messa vinse il primo premio nel concorso internazionale di Nancy nel 1854 ed una seconda riportò nel 1863 il secondo premio al concorso indetto a Parigi dall'Union Chorale. Il suo valore fu da tutti riconosciuto e di ciò sono testimonianza le relazioni che egli ebbe con i più dotti musicisti del suo tempo, in Italia e in Europa. Il Candotti compose musica italianamente melodica, accessibile a tutti gli ascoltatori e di immediato godimento musicale. Di vasta cultura, di facilissima vena e di straordinaria fecondità musicale, a lui, oltre al merito di aver intuito il genio musicale del Tomadini e di averlo aiutato nei primi anni di studio, si deve riconoscere la priorità in Italia di aver proclamato la necessità della riforma della musica sacra, ridotta a quel tempo a teatrale e mondana. Sua particolare cura fu inoltre quella di aver voluto e saputo adattare la musica alle diverse solennità della Chiesa e alle varie stagioni dell'anno. Eccovi ora il mottetto Gloria et Honore, dalla Messa di San Faustino, a quattro voci dispari. In questo Exultate Deo, a quattro voci pari e organo, il canto è sostenuto dalle voci che fanno solo gli accordi, mentre tutto il componimento musicale è affidato all'organo, tanto che questo mottetto può essere eseguito anche come una vera e propria sonata. Thank you. Dalla Messa di Parigi ascoltate ora questo magnifico Cum Sancto Spiritu, nel quale il Candotti dà una chiara dimostrazione della sua perfetta competenza in polifonia. Questo De Profundis, composto per i Vesperi del Natale, è un salmo nel quale l'autore esprime con profondità musicale la sua aderenza alla sacra liturgia. È un pezzo caratteristico per solo basso e organo. Nel Gloria, che ora ascolterete, per tenore solo e organo, il Candotti rivela una vena drammatica non comune. Spiritui Sancti. Fra le composizioni profane, eccovi ora il Chalchumit, che il coro interpreta a mo' di villotta. Ed infine ascoltate questa stupenda sonata di Pasqua, nella quale si gusta la festività primaverile della più grande solennità liturgica della Chiesa. Con queste brevi composizioni, cari amici in ascolto, Friuli nel Mondo ha voluto, seppur modestamente, onorare questo grande friulano, che con la vivacità e la versatilità del suo ingegno musicale ha onorato la Chiesa e l'Italia. Abbiamo trasmesso Friuli nel Mondo, 71esima trasmissione dedicata agli emigrati, a cura di Ermete Pellizzari. Ha cantato il coro di San Lorenzo di Sedegliano, diretto dal maestro Leandro Plenizio. All'organo Zanin, Gianfranco Plenizio. Solisti Ottavio Plenizio e Leandro Plenizio.